17-8 minuti, bentrovati e bentrovate. Ciao Mariano, un'altra puntata della Schiena del Soul. Che dici Marta, buonasera, come va? Umida, 17 umida. Sì, 09. Mi manca un po' il buongiorno di Eder oggi. È vero, e ci mancherà perché, già lo possiamo dire come anticipo, non ci sarà. Comunque, nonostante l'assenza di Eder per parlare della Colombia, credo che avremo una puntata carica di contenuto. Certo, sì, con parlando Eder, del World Map. Esatto, con Eder abbiamo deciso che invece di cominciare oggi e poi interrompere e cambiare d'orario, inizieremo direttamente a parlare di quello che è stato il processo di pace, o comunque quel patto di pace che è stato firmato in Colombia, perché ci sembrava importante metterlo nelle tappe che la Colombia, da quello che vi abbiamo raccontato ad oggi, ha toccato. E oggi, come vi dicevamo, abbiamo, perché gli avevamo chiesto di sportarci, perché oggi abbiamo indubbiamente una puntata piuttosto piena. Non solo sentiremo gli audio che non siamo riusciti a sentire la volta scorsa dell'onco Juan Pichun, ma parleremo al telefono con Karina Richelme, avvocatessa dell'onco Facundo Jonesuala, nonché di José Tralcali, insomma due dei casi più eclatanti di violazione dei diritti dei prigionieri e delle prigioniere, e soprattutto di violazione dei diritti di quella che è la Convenzione 169 della OIT, appunto, che dà una serie di permessi a coloro che non vengono dalla popolazione bianca, e soprattutto andiamo a capire con lei perché questo accanimento nel negare tutta una serie di misure alternative al carcere di cui il lonco potrebbe godere per diritto, ricoprendo poi tutti i requisiti richiesti. Con lei ne parleremo, e poi insomma ci sarà da parlare un nuovo omicidio nell'Ofkenkentru, insomma quasi due mesi fa, no Mariano, ne abbiamo parlato dello stato d'assedio in cui si trovava. Sì, perché praticamente da due mesi si trova l'Ofkenkentru nella provincia del Rio Negro, nello stato argentino, si trova giustamente isolato da parte delle forze dell'ordine, delle forze repressive della provincia di Rio Negro. Si sta inasprendo tantissimo la situazione di repressione. C'è stata un'uccisione di un ragazzo mapuche settimana scorsa, e veramente sta diventando molto grave la situazione. Ne parleremo di questo. Per fortuna, io almeno ho percepito, forse nella mia bolla virtuale personale particolare, ho visto un eco di ovviamente diverse organizzazioni, collettivi, mezzi di comunicazione alternativi, diverso a quello che succedeva tempo fa. Certo, le istituzioni, no, e i politici tacciono, questo di sicuro. Esatto, continua, infatti, sempre uguale. Un po' parlando con delle compagne mapuche veniva fuori che probabilmente sì, se è vero che collettivi, diciamo, la politica non istituzionale, probabilmente anche i collettivi più giovani sentono un po' come è successo in Cile, sicuramente in forma un po' più calma rispetto alla rivolta cilena, forse di nuovo sentono la causa mapuche dopo quello che è stato il caso di Santiago Maldonado, dopo l'estradizione di Facundo Uala, che comunque insomma non ha potuto non rompere gli argini del mainstream, no? Comunque due primi ministri che si incontrano per decidere l'estradizione di un mapuche non è cosa che capita tutti i giorni, quindi non stento a credere che poi, diciamo, nel mondo da basso, come usiamo dire, nel nostro mondo, questa notizia abbia fatto scalpore. Le compagne certo ci dicevano che in questo clima forse la politica istituzionale non si sbilancia in una fase come questa, no? Elezioni fresche, primo giro, secondo giro, c'è un po', si tentenna un po' a parlare di mapuche perché può veramente segnare da che parte sei schierato, e quindi forse la politica istituzionale sta facendo invece più fatica, come no? Se fossero più lontane dalle elezioni, chissà, forse qualcuno direbbe pure qualcosa. Ma questa era una riflessione che facevano loro. Sì, no, io infatti, se non ricordo male, se non sbaglio, le uniche dichiarazioni di politici, diciamo, parlamentari anche, che ho visto, è stato ovviamente, dico ovviamente perché così è almeno nel panorama argentino, da parte delle rappresentanti e i rappresentanti della sinistra, no? Che ricordiamo, in Argentina la sinistra è trotskista nella stramaggioranza, almeno quello che può contare o pesare qualcosina elettoralmente, Eso lo da Miriam Bregman, per esempio, una che è stata eletta come deputata nel Parlamento argentino nelle ultime elezioni. Solo da lei ho sentito, ho letto qualche dichiarazione di appoggio ovviamente alla comunità mapuche dell'Ofkenkentreu. Per il resto il governo, come si dice in Argentina, nazionale e popolare, niente, taccia ovviamente, e nessun altro alleato tra virgolette progressista del governo ha detto niente rispetto a questo fatto, nonostante, dicevo, questo silenzio istituzionale da parte del governo. Comunque c'è un appoggio sì maggiore rispetto a tempo fa da, insisto, organizzazioni, che ne so, la PDH, che è l'Assemblea Permanente per i Diritti Umani, la Correpi, che è la coordinadora contro la repressione, per esempio, tanti mezzi di comunicazione alternativi come ANRED, l'Agenzia Nazionale di Radio Alternative, di Mezzi Alternativi, per esempio, come l'ATFEM, un altro mezzo di comunicazione femminista e alternativo, che hanno fatto di megafono di questo caso, perché dopo c'era purtroppo, o c'è stata, meglio detto, questa triste coincidenza, no? Tra l'uccisione di questo ragazzo mapuche con l'anniversario dell'uccisione di Rafael Nahuel, no? Quindi si dava, dicevo, questa triste coincidenza, e questo faceva diventare questo fatto, questa situazione ancora più pesante per la comunità. Ovviamente ne parleremo di questo, perché dicevamo, abbiamo annunciato, abbiamo parlato qua di quando due mesi fa si sono trovati veramente rinchiusi nell'Ofkenkentreu, e questo non ha impedito che due persone, perché questo lo approfondiremo, ma lo approfondiremo, due persone in abiti civili. Sì, sono entrati e hanno ucciso a questo ragazzo e hanno ferito in maniera molto grave un altro. Anche sì, qui, sì. Insomma, adesso si capirà cosa è successo, anche se chissà, forse noi un po'. Sì, sta prendendo veramente una piega molto molto grave e pesante, come non si percepiva, non come non succedeva, come non si percepiva, perché questo succedeva da tempo anche in Argentina, no? Ogni tanto facciamo, no, questi chiarimenti sulla differenza della lotta mapuche, che è la stessa, però dico, nella situazione nel territorio occupato dello Stato cileno e nel territorio occupato dello Stato argentino, no? Ci stanno delle piccole differenze, anche se la lotta è la stessa. Dicevo, questa repressione, questa situazione di repressione sempre è andata così anche nel territorio mapuche occupato dello Stato argentino, ma ora si percepisce, sembra, di una forma diversa, di una forma molto più pesante, e per questo si fanno eco, dicevo, diverse associazioni, collettivi, eccetera eccetera, che si dimostrano solidali. Questa è una cosa positiva. Ovviamente dall'altra parte, la parte negativa è che, insisto, si sta vivendo una situazione di violenza che non si percepiva, almeno io, e soprattutto ora alla distanza, non la percepivo così da parecchio tempo. Tutto quello che vi diciamo, chiaramente, insomma, poi ci riporta alla mente tante cose, no? Questo atteggiamento in cui appunto viene da poco ucciso un compagno mapuche in Araucanía, e ne viene ucciso un altro invece appunto nell'Ofkenkentreu, questa del Ternero, no? Questo luogo molto particolare di cui, ahimè, spesso parliamo, proprio per la presenza di militarizzazione e di gente che vorrebbe invece poi appropriarsi di quel territorio, forestali, turismo, eccetera eccetera. Questo è una differenza sostanziale di due paesi: uno che riconosce i diritti dei popoli indigeni, eppure questo succede, cioè l'Argentina; uno che non li riconosce, ma succedono cose assolutamente simili, no? Quindi, come vedete, poi al di là delle leggi scritte e delle costituzioni, ci sono poi le possibilità del potere di agire veramente come gli pare e piace. Io alle 17:17 vi metterei un piccolo brano musicale, perché sì, prima di iniziare tutto questo vorrei creare una bolla un po' esterna, perché è venuta a mancare una compagna messicana molto importante, che chissà, molti e molte che mi ascoltano hanno incrociato senza sapere che fosse lei, chi è stato in Chiapas ormai parecchi anni fa, chi si è occupato del Tribunale dei Popoli 10 anni fa, qui insomma sicuramente Mercedes Osuna è stata una donna, una compagna, una militante presente sotto tanti aspetti. E allora io metterei un piccolo brano musicale, perché le vorrei proprio fare in 5 minuti un piccolo omaggio, leggendo una cosa e mandandovi poi una canzone. Dai, cominciamo allora la Esquina del Sol di questo giovedì 25 novembre sull'87.9 di Radio Onda Rosa, come tutti i giovedì, con questo omaggio. baile como quiera. Lo hago siguiendo el corazón, no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el... Sentiremo le voci delle donne mapuche in questo 25 novembre. No, non ce lo dimentichiamo, insomma. Alla fine dell'Eschina del Sol torneremo a parlare, come è già stato fatto in mattinata, l'attenzione è alta in vista appunto di un 27 novembre, di un grande corteo. Trabajo como hormiga de racota, hay razones de sobra al più che la nota. La sangre nos altivia, a lo codicioso le sacamos el corazón como a Pedro de Valdivia. Sobreexplotación, tanta herida, devuelva la tierra la única salida. Rápido y lento, palpitando según el momento, no sigue normas, sigue sentimiento. Si alguien te cuentea, te avisa. La cara del corazón es la sonrisa. Vuela sin inhala, palabra transparente, inhala. No para porque el tiempo lo acorrala. Buena gente valiente lo regala. Omnipresente en la buena y en la mala. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Allora, insomma, volevo un po' spezzare con quello che era l'introduzione della trasmissione. Insomma, non so se il nome di Mercedes Sosuna a qualcuno di voi dice qualcosa. Io personalmente è un po' un'emozione forte, perché l'ho conosciuta proprio quando per la prima volta lasciavo questo continente per scoprirne un altro, il grande continente americano, in questo caso insieme a un'altra compagna, un bellissimo viaggio in Messico. E in quel tempo quella famiglia, insomma, l'impegno di Mercedes era chiaramente tutto verso la grande levantamento zapatista, ma insomma, come vi dico, parliamo di una donna che a 360 gradi è stata sempre in mezzo alla difesa dei popoli indigeni e a quelli che sono stati i diritti delle donne. E poi ci sono sempre malattie infami che ci separano sempre troppo presto da queste persone. Ho voglia di celebrarla perché tante dovrebbero essere le persone come lei, e perché so che molte e molte di noi hanno avuto la fortuna di incontrarla. Io mando un enorme abbraccio a Juan, il suo fratello che ho più vicino in amicizia, ma insomma a tutte le sue sorelle, a tutti i suoi fratelli che sono a San Cristobal oppure insomma sparsi per il mondo, con un ricordo bellissimo di Doña Paola e della loro casa. E allora me l'ha proprio mandato Juan, perché credo che sia una cosa molto bella da leggerla, e la voglio leggere in spagnolo perché credo che si capisca bene. Il Rio e l'Oceano di Khalil Gibran. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás para ver su recorrido, para ver las cumbres y las montañas, para ver el largo y sinuoso camino que abrió entre selvas y poblados. Y ve frente a sí un océano tan extenso que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el medio desaparecerá, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse océano. E allora, insomma, con questo bellissimo scritto io rinnovo il mio abbraccio ai fratelli, alle sorelle di Mercedes, e come sapete c'è sempre una canzone un po' speciale che dedichiamo in questo momento, e la dedichiamo anche a Mercedes Osuna. Tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, funebreciero y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con la extrañas en cada beso y en cada verso. Tu voz yo siento, cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida. Sette 26 minuti, allora chiudiamo anche questi saluti, torniamo in pieno nella nostra trasmissione. Come abbiamo detto, il prossimo passo sarà quello di chiamare, insomma, Carina Rechelme, che diciamo è avvocatessa non solo di Facundo Gione Suala ma anche di José Tralcal. Allora, sicuramente la situazione di Facundo la conoscete meglio, ne abbiamo parlato fino alla scorsa trasmissione. Lui sta scontando questa pena di 9 anni e dopo aver scontato più ormai di un tot di parte, adesso non mi ricordo, mi pare 2/3 bisogna scontare della pena, in più tutte le, insomma, la buona condotta qui si chiamerebbe, in questo caso è tutto un po' particolare, sappiamo che è in un braccio riservato ai prigionieri mapuche, quindi insomma tutto un po' particolare, diciamo. Comunque lui ricopre tutti i requisiti, per cui sono ben 4 volte che richiede le misure alternative al carcere e queste gli vengono negate. L'ultima volta tra l'altro gli sono state negate in maniera molto particolare, era presente in aula, insomma, una personalità particolare, questo tra l'altro ha creato un po' anche di qui pro quo, insomma tutta una serie di cose che adesso gli chiederemo. Ma insomma anche di José Tralcal, che invece, non so se vi ricordate, noi qualche settimana fa abbiamo mandato un audio del figlio, o forse abbiamo parlato proprio con lui al telefono, no, mi sembra che fossero degli audio, va bene, cambia poco, nella misura in cui anche la situazione di José Tralcal è parimenti accanita dal punto di vista proprio di accanimento giudiziario su questo prigioniero. Vi ricordate che lui doveva, diciamo così, doveva essere fatto un referto che garantisse che lui si stesse comportando bene, anche gendarmeria, così. A un certo punto gli viene posta la domanda se lui era pentito di quello che aveva fatto, e lui dice: non mi posso pentire di una cosa che non ho fatto, non posso pentirmi. No, è rimasto coerente con la propria posizione. Questo chiaramente ha bloccato tutta la situazione, no? È come quando si chiede, no, non so come dire, no? Quindi veniva certificato che questa persona non era una persona violenta, non era una persona aggressiva, non era una persona pericolosa, nella misura in cui però rimaneva ancora assolutamente convinta del proprio ideale politico e comunque del proprio percorso, del proprio essere mapuche. Per questo, di fronte alle persone come José Tralcal, con una posizione ideologica forte, determinata, coerente, diventa una domanda fuorviante, no? Quella di pentirsi o meno, oltre che a me personalmente sembra una... rinnegare. Sì, no? A me sembra personalmente sembra una cosa tipo del Medioevo, no? Esatto, esatto. Inquisizione che se ne pente, si converte, crede ora in Dio. E esatto. Insisto, di fronte alle persone come José Tralcal è fuorviante questa domanda. E se certo alla fine questo determinerà diciamo il successo o meno del referto per dargli, per otorgargli quello che è un diritto, avendo addirittura tutti i requisiti, perché ce li aveva tutti, allora sarà sempre così. Esatto, e la bilancia poi, no. Esatto, questo poi non è stato neanche l'ultimo passo, perché sarà sempre lo Stato contro José Tralcal, punto. Esatto, l'ultimo passo era quello che in questa perizia che gli negava quindi questa possibilità veniva aggiunta una perizia diciamo psicologica, che però è stata ridatta da un assistente sociale, quindi non poteva ritenersi una perizia. Tutto bene, questa però cosa se una perizia invece, psicologica. Esatto, dopodiché invece chiaramente come dicevamo poco fa, insomma, è stata assunta come una perizia. Quindi noi avremo una serie di domande da fare a Karina Richelme. Sì. Noi adesso vi mettiamo un po' di musica, l'andiamo a chiamare al telefono. Come sapete, è una di quelle situazioni in cui dovrete avere un po' di pazienza. Noi tradurremo le domande, tradurremo la risposta e confidiamo anche nel fatto che voi, ecco, a questo punto dovete apprezzare questo lavoro. Eh sì, a questo punto credo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un A1, forse A2 di spagnolo ce l'hanno, no? Dai. Solo per no, ma poi insomma traduciamo almeno, dovete... almeno dico. Infatti, piano piano, questo mini corso. Si torna tra poco. Allora, noi vi proponiamo di nuovo Luanco e ci sentiamo tra poco con Karina Richelme. Karina Richelme. Hemos vuelto. Incheta Luanco. Vamos como águila. Está sabroso el mate, y está picante el merken. Le escucharíamos al bebé, le ponemos otra vez. Y está sabroso el mate, y está picante el merken. Le escucharíamos al bebé, le ponemos otra vez. Mundo circular, aquí todo se repite, porque lo bueno mi gente lo admite. Machacando con Nehuel, el aquí para que pique, como el merken, este sabor que purifique. No lo dejo de hacer, me tiene fuerte. No hay primera sin segunda, así que cariñe. La segunda ronda siempre es más buena. Tu mierda mapuche aquí es lo que suena. Y está sabroso el mate, y está picante el merken. Le escucharíamos al bebé, le ponemos otra vez. Si está sabroso el mate, si está picante el merken. Le escucharíamos al bebé, le ponemos otra vez. Allí llega, llega el cuifi que ne buen huiño y taquiñe, porque me lleva, lleva a volar y planear como el manque. Allí llega, llega el cuifi que ne buen huiño y taquiñe, porque me lleva, lleva a volar y planear como el manque. Poesía y la cumbia mi tío y mi tía. Rap lo vio en la calle y su poesía. Y la cumbia mi tío y mi tía. Rap lo vio en la calle y su poesía. Y la cumbia mi tío y mi tía. Rap lo vio en la calle y su poesía. Y la cumbia mi tío y mi tía. Salió mortal. 17:34 minuti, torniamo in voce con Mariano e, come vi avevamo annunciato, al telefono con l'avvocata Carina Richelme, avvocatessa dell'Onco Facundo Cionesuala e anche, come sapete, dell'altro detenuto mapuche, José Tralcal. Di tutti e due i casi vi abbiamo parlato, più spesso, come dicevamo, di Facundo, però intanto io saluto Carina, bienvenida en Radio Onda Rosa, muchas gracias por tu tiempo. Hola, les saludo a todos desde Gualmapu, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía, más o menos quien escucha conoce bastante bien la situación en que se encuentra el Onco Facundo Cionesuala, y claro, lo que primero me viene de preguntarte es de explicar lo que es alrededor de la digamos, de esa negación enseguida, de todas las veces que el Onco pidió la medida alternativa. Eso lo hizo, sabemos, con todo lo requisitos completos que se necesitan, y ya creo que son 4 veces que se lo niegan. Si nos pueden contar un poco, además de leer un gran racismo, seguramente una persecución, que es además lo que está alrededor de ese de esa manera de actuar de la justicia. Bueno, efectivamente, el Onco Facundo desde fines del año 2019 cumple con todos los requisitos para poder postular a un beneficio que todos los presos que están en Chile pueden acceder, el beneficio de libertad condicional. Poder acceder a ello, tú tienes que cumplir requisitos, es decir, comportarte bien dentro del penal, cumplir la pena que te han impuesto. Él desde el año 2019 puede acceder. Allora, Carina ci dice che chiaramente io gli ho chiesto appunto di che cosa gira intorno, oltre a leggere l'accanimento giudiziario, cos'è che gira intorno a questo continuo negare i requisiti, le misure alternative al carcere per il Onco. Chiaramente lei ci dice appunto, l'Onco ha sempre, soddisfaceva sempre questi requisiti. Sono 2 anni, da fine del 2019, che l'Onco Facundo c'ha tutti i requisiti per poter avere questa possibilità, questo beneficio, che dice lei, ovviamente un beneficio che è un diritto, non un beneficio, un diritto per tutti i prigionieri del Cile. La negano, le rifiutano questa possibilità da fine del 2019, avendo tutti i requisiti. Ok. Él ha postulado 3 veces ya a los beneficios de y la Comisión de Libertad Condicional, que son aquellos encargados de evaluar los antecedentes, se le ha negado. Estos beneficios han sido postulados ante los tribunales, ante los juzgados de Chile, para que ellos se manifiesten respecto de la legalidad de esta negación. Desgraciadamente, los tribunales igualmente han ratificado lo que ha dicho la Comisión de Libertad Condicional, que tiene directa relación con la intervención que no se realiza con pertinencia cultural, sino que es una evaluación que no observa quién es el Onco Facundo, de qué pueblo viene y qué es lo que representa también en el conflicto existente entre los estados, en este caso argentino y chileno, con el pueblo mapuche. Ci dice Carina che hanno fatto richiesta di fronte ai tribunali. Perché? Perché di nuovo la possibilità di questa misura alternativa è stata rifiutata 3 volte, quindi di fronte a questa situazione si chiede di schierarsi, di dare un'opinione ai tribunali cileni, che ovviamente no, hanno confermato semplicemente questa decisione, e basicamente era quello che ci ha spiegato, in quanto a che sono arrivati addirittura si è chiesta una motivazione, di palesare una motivazione comunque, per questi dinieghi. Dopo aggiungeva lei che sono questi tribunali che giustamente non capiscono, e per questo mi remite a quello che ho detto su José Tralcal, no? Su queste domande che alla fine determinano queste cose, non capiscono il ruolo di Facundo Cionesuala, non lo riconoscono non lo capiscono, non riescono, non vogliono, direi, non che non riescono, non vogliono, una decisione ovviamente politica di non riconoscere il ruolo che svolge dentro la comunità mapuche Facundo Jones Guala e perciò come reagisce lui di fronte allo Stato cileno. Karina. Sì, bueno, nosotros estamos realizando distintas acciones destinadas a que, en definitiva, tanto el Ministerio de Justicia como los organismos pertinentes apliquen los convenios internacionales respecto de la intervención de personas que pertenecen a pueblos originarios, en este caso el convenio 169. En ese contexto hemos llevado adelante una cautela de garantías para que de cuenta cuál ha sido el trabajo, de qué manera se está aplicando el convenio con los presos mapuches. Allora, chiaramente loro si stanno facendo una serie di azioni per portare a galla questa questione e quindi si stanno rivolgendo al Ministero di Giustizia, alla comunità internazionale, chiaramente quello che è il trattato, la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è quella che appunto indica il comportamento davanti a popolazioni indigene. E loro stanno chiedendo garanzie rispetto al normale svolgimento, all'attuare di questi diritti, perché non trovano, diciamo, queste garanzie. Karina, sì. Bueno, respecto de ello, hemos observado que existe una nula disposición de parte de las autoridades administrativas chilenas y que tiene que ver mucho con el colonialismo y el racismo que estas instituciones tienen permeado. Y que también tiene que ver con el actual gobierno que desgraciadamente tiene una disposición de diálogo con quienes pertenecen a los pueblos y que además se manifiestan públicamente en la reconstrucción del territorio mapuche, lo que hace mucho más difícil y además genera una ilegalidad cierta y absolutamente real respecto de la negación de los beneficios que hemos visto además que no solamente ha afectado a Facundo, sino que también otros presos, como en el caso de José Tralcal y de Luis Tralcal, están viviendo la misma situación. Allora, chiaramente diciamo la disponibilità assolutamente assente di queste istituzioni è palesa quella che è tutta il razzismo che permea tutte le amministrazioni cilene diciamo di questo settore. Tra l'altro, appunto, il fatto che queste cose vengano negate, abbiamo parlato di questi ultimi eventi, è una cosa che riguarda non solo appunto questo prigioniero in particolare, insomma, ci ricorda José e Luis Tralcal. Certo, e ci ricorda Karina pure che sta diventando e di fatto una situazione di illegalità, già il fatto di non aver rispettato questi diritti. Per questo nella risposta precedente ci diceva che stanno chiedendo le garanzie perché vengano rispettate le forme del dovuto processo e questo aggiungeva, certo, non solo con Facundo, quindi là si vede anche un razzismo sistematico, non è personale con Facundo Jones Guala, lo è in quanto rappresentante di una lotta così come José Tralcal, eccetera eccetera. Si quiere decir algo sobre eso, si no te va a preguntar más. ¿Cómo? Sí, si quiere seguir. Ya, sí, bueno, la próxima semana vamos a tener dos importantes audiencias en las cuales se pide la intervención judicial para que Gendarmería, en definitiva, quien tiene la obligación de aplicar el convenio 169 y la obligación de evaluar a don José Tralcal como a Facundo Jones Guala, se cuenta de qué manera ha capacitado sus funcionarios para que ellos puedan intervenir de manera pertinente. Las denuncias que ellos realizan es que los funcionarios no conocen las mínimas cuestiones respecto del pueblo mapuche, no conocen mínimamente cuál sería su cosmovisión, de qué manera se organiza el pueblo mapuche, no reconocen que ellos son autoridades, no reconocen que ellos son parte de la tierra, y esa ignorancia genera evidentemente una evaluación impertinente, ilegal, que deviene luego en la negación de sus derechos. Ci saranno due udienze la prossima settimana e loro chiederanno, perché la situazione è questa: Gendarmeria ovviamente dovrebbe, no, è l'istituzione a dover applicare la organizzazione, il trattato, no, della OIT, come dicevamo. Comunque succede che non conoscono giustamente la cosmovisione del popolo cileno, quindi questo lo aggiungo io per provare a spiegare, perché lei ci descrive qual è la situazione. Non conoscono, non sanno l'importanza di un lonco, non sanno cosa rappresenta, quello che dicevamo prima, ancora, no? Quindi lì si vede di nuovo questo razzismo, una totale ignoranza, e questo fa sì che loro ovviamente hanno un'interpretazione che non è quella che potrebbero avere se decidessero di prendere un'altra posizione, no? Cioè loro si trovano a portare queste denunce a persone che non sanno neanche di che cosa stai parlando. Appunto, sì. Volenti o nolenti, questo non ci cambia. E questo, queste denunce verranno fatte sia per il caso di Facundo sia per quello di José Tralcal. Sí, es una ignorancia que se quiere tener, porque bueno, tú estabas nombrando José Tralcal, yo creo que bueno, esa ignorancia no nos cambia si es querida, si es querer tener esa ignorancia, ¿no? Pero además de esa manera de actuar de la institución jurídica, hay también una... sí, bueno, un acanimiento, no sé cómo decir, pero una persecución a nivel bastante cotidiano, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los últimos hechos que pasaron en la cárcel con Facundo Guala, que creo encima, junto con Luis Tranamil, recibieron una punición uno, una denuncia el otro, por la presencia de un policía particularmente racista que aprovecha de su posición racista y autoridad por juntar denuncias en lo que es el no la situación del lonco. Y además por lo que ha sido la situación de José Tralcal, yo sé que hay asistentes sociales que han escrito pericias, pero no son médicos, o sea, seguramente hay una manera de hacer donde es duro también pedir la garantía, ni siquiera se pide el derecho, ¿no? Es como si el trabajo empezara antes. Sí, efectivamente. Desgraciadamente es parte de la persecución que comienza en llevarlos a juicio y llevar pruebas falsas para poder condenarlos, y que continúa incluso cuando ya son condenados de manera arbitraria, según lo que nosotros hemos expuesto, y que condenados de esa manera hoy día, incluso ellos cumpliendo de manera satisfactoria la pena, se niega constantemente y interviene de manera ilegal el Ejecutivo en las audiencias, quien va a un abogado representante del gobierno a pedir que a ellos no se les otorgue ningún beneficio. Sí, questo atteggiamento del quale parlava Marta, no, all'inizio, spiegando o riflettendo su questo atteggiamento nelle pratiche giudiziarie, che viene di nuovo da questa volente o nolente ignoranza, che fa sì che si prenda una posizione politica di fronte ai rappresentanti della comunità Mapuche. E quindi dice questo fa parte, no, tutte queste forme, tutto questo accanimento che prende diverse forme, fa parte della stessa persecuzione che già comincia con le prove false, no, i processi, già portarli, no, a processo, eccetera eccetera, e continua addirittura anche una volta condannati, no, con queste misure, con questo accanimento quotidiano, come diceva Marta, no, con dei agenti della penitenziaria aperta e palesemente razzisti, no, che si accaniscono di questa forma particolare con i prigionieri politici Mapuche, e quindi si traduce in questa quotidianità. Dovremmo aspettare, penso, questo che diceva Karina rispetto alla prossima settimana. Karina, por lo tanto, digamos, los próximos pasos, un poco nos lo dijiste, son estos. Tenemos que tener ahora paciencia e imagino trabajar duro para poder llegar a la semana que viene con estas dos audiencias importantes. ¿Qué expectativas, no sé si pedirte, pero qué lectura que nos podrías hacer de posibles escenarios a partir de la semana que viene? Yo observo y creo que la justicia tiene que ser fuerte respecto de la aplicación de la legislación referente a pueblos originarios. Hoy día nos encontramos en una situación política en Chile bastante álgida, no solamente porque nos encontramos reestructurando nuestra constitución, porque además se vienen las elecciones presidenciales que yo creo que son de las más importantes en los últimos tiempos en la historia, donde el fascismo pretende o quiere llegar al poder de manera democrática, que evidentemente todos los pueblos que estamos en Chile y que habitamos este territorio nos tiene bastante preocupados, y esperamos que la institucionalidad, como lo es el Poder Judicial, realice el trabajo que debe realizar y que significa aplicar la ley, y no ser caso omiso del convenio 169, no olvidarse de quienes se encuentran privados de libertad, más allá de las razones políticas que existan. El Poder Judicial tiene la obligación de aplicar el Estado de Derecho, y lo que nosotros estamos solicitando básicamente es que se aplique el Estado de Derecho de manera simple. Fa riferimento a una cosa che forse ci siamo dimenticati di tradurre nella risposta precedente rispetto a quando i rappresentanti, soprattutto del potere esecutivo, vanno a fare pressione direttamente, esatto, sui magistrati. Questa è una cosa, scusate, perché lo abbiamo citato quando abbiamo fatto l'introduzione della trasmissione, no? Ricordandovi che Facundo ci raccontava che a una di queste udienze, dove lui chiedeva le misure alternative, si è palesato, adesso non mi ricordo quale tipo di funzionario, dici? So, sì, però forse era anche un bel funzionario alto. Comunque si è presentato, sì, sì, in aula. Faceva riferimento a queste cose. Esatto. Esatto, no? Quindi chiaramente questo serve a fare pressione su intanto i giudici che sono lì e che vedono che ci sono queste presenze nell'aula, insomma, che se sono in aula poi non vogliamo sapere poi come agiscono, quindi sicuramente queste sono presenze che pesano. Certo, che fanno pressione. E quindi in questa risposta Carina ci diceva che la giustizia, lei chiede, si aspetta questo, che la giustizia deve essere forte ovviamente nel prendere queste decisioni, perché è una situazione importantissima in Cile, una situazione molto, lo sappiamo, movimentata da due anni. Il fascismo cerca di infilarsi. Il contesto proprio odierno ci dice che giustamente ci stanno le elezioni presidenziali, che il fascismo sta cercando di arrivare attraverso le forme democratiche, guarda che ossimoro, quindi loro sono veramente preoccupati e insistono semplicemente sul fatto che la giustizia deve applicare, no, le garanzie per il dovuto processo, per uno stato di diritto, semplicemente stanno chiedendo quello, un'indipendenza dei poteri, ovviamente, che la giustizia faccia quello che dovrebbe fare secondo la Costituzione, è così semplice. Carina, io non so se a livello de judicial tú quieres contarnos algo, si no a mí me gustaría también preguntarte cómo están estos presos que tú sigues, cómo, ¿no? Porque una cosa es pensar en los que el percurso político de esta persona, yo reconozco en el Lonco una de las, no sé, de las personas más coherentes y resistentes como ejemplo humano que yo creo conozco, pero así menos conozco a Tlalcal, pero estamos hablando de seres humanos que están sometidos a una violencia cotidiana, psicológica, de red en su pensamiento en el futuro, nos siguen dándose ejemplos con palabras muy claras, son las mismas palabras. Yo sé que ayer o anteayer el pueblo mapuche se manifestó en Temujo bajo la cárcel para saludar a estos presos. Entonces te dejo un poco de tiempo, no sé, para juntar lo que no te hemos preguntado y también recordar que en tantos digamos tratados internacionales y hablas de tribunales, estamos hablando de vida de personas, de la reconstrucción de un mundo, de un pueblo muy digno y no, y así que te dejo un poco de espacio para juntar lo que quieras. Bueno, lo cierto es que los presos mapuches y en realidad el conflicto y que deviene en una de las deviene en el cancelamiento de los dirigentes tiene que ver con la utilización de la entidad, quienes se han dejado y utilizar políticamente para instaurar lo que en definitiva es la guerra que comenzó en 1856 con el ingreso del ejército al sur del Biobío, que hoy día quienes son parte de las instituciones del Estado chileno, que se ha hecho parte de una voz de no reconocer esta guerra que comenzó, esta usurpación que comenzó, han seguido manifestándose y utilizando la palabra Estado de Derecho para decir que en definitiva lo que hacen está resguardado según sus normas que han sido creadas ilegítimamente en un territorio que que ha vivido un genocidio de un pueblo. Los presos hoy día, bueno, decirlos porque me comunico ciertamente con ellos, se encuentran en una posición bastante digna, firme, siempre exigiendo su derecho, pero siempre teniendo absolutamente claro que viven una posición que es parte también de lo que significa reconocer quiénes son y la defensa de un pueblo, en este caso de Facundo, que representa además la defensa de un pueblo y que se encuentra a ambos lados de la cordillera, lo que duele también al Estado chileno y al Estado argentino. Así que yo, bueno, les agradezco mucho la comunicación, el interés, que desde tan lejos, desde el otro lado del mundo, se interese de lo que está pasando acá. Desgraciadamente no pasa lo mismo en el país, existe mucha desinformación y en general la gente no le interesa saber lo que está sucediendo. Para ellos más bien esto es un problema, un conflicto que no les genera, y que además, bueno, los medios de comunicación hacen parte de eso también. Y que, bueno, es muy importante toda esta expansión de información para así lograr las mejores condiciones para los lamienes que se encuentran privados de libertad, y ojalá poder acceder rápidamente a los beneficios a los cuales ellos tienen derecho y se les ha negado ilegalmente. Bene, chiaramente lei dice che quello che noi vediamo è una guerra che adesso è in queste aule, ma è cominciata nel 1855, quando c'è stata proprio... 1861. Ah, 61, mi ricordavo. Fino al 1883, okay. L'occupazione l'occupazione dell'Araucania, lo abbiamo raccontato, quello che è stato il genocidio del popolo Mapuche, non ci sono altri nomi, e che adesso si sta palestando in questo modo. Di fronte invece c'è un popolo firme, fermo, che ha chiaramente il suo percorso, che torna a fare un lavoro, e questo è l'atteggiamento che si tiene esattamente di fronte a tutta questa gente. Quello che succede a questi prigionieri e alla Palestina, sì, ognuno di loro con una consapevolezza di ciò che rappresentano di esatto, fronte al, no? al loro popolo. Facundo ce lo fa vedere sempre, la ringraziava sua forza, Carina, ovviamente l'interesse di Radio Onda Rossa, la possibilità di parlare, diciamo, di questo dall'altra parte dell'oceano, perché dice che purtroppo non è così nel Cile, no? Ovviamente, come non succede nemmeno nell'Argentina, aggiungo io, ma è una possibilità importantissima questa di poter parlarne, ovviamente per questo, per cercare la solidarietà. Carina, yo te ringrazio, te agradezco muchísimo. Nosotros en cambio estamos aquí pendientes, sabiendo que ustedes saben que acá estamos para darle voz cada vez que creen necesario. Así que si lo ves, llévale un abrazo desde esta radio, desde la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche, y otra vez muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Les llevaré los saludos entonces tanto a Facundo como a José Talca. Un saludo grande. Un saludo grande, fuerza, Marichi. Estoy muy bien. Hasta luego. Chao. Hemos, abbiamo quasi guarda partivo con lo spagnolo, continuavo col mood. Abbiamo parlato con Karina Riquelme, l'avvocatessa di José Tralcal, di Facundo Jones Wala, parole veramente importanti. Molto chiare, ci ha fatto come sempre un riassunto molto didattico per poter seguire il caso e alcuni tecnicismi, no, su come si chiedono le cose, perché vengono rifiutate, ma anche, soprattutto, credo più interessante, perché ci aiuta veramente a capire la situazione, diciamo, quel contesto, no, in quale giustamente contesto sociale, politico, culturale si svolge questa vicenda. Da una parte lo Stato cileno, dall'altra parte un popolo che difende la sua cosmovisione, la loro cultura, la loro terra, e che si trova di fronte a un accanimento prodotto da un'ignoranza, come dicevamo, volente o nolente, comunque fa sì che lo Stato cileno di questa forma prende una posizione. Questa posizione è sempre quella del carnefice, purtroppo per il popolo Mapuche, quindi molto chiara anche per capire veramente questo razzismo strutturale in tutte le istituzioni, no? Mamma mia, da sì, quelle proprio giudiziarie a quelle più repressive, no? Come può essere la penitenziaria, ma tutte, ignorando di nuovo così la situazione sbilanciata, cioè veramente non vengono rispettati i più bassi diritti umani, no? Perché c'è un... E poi le diceva forse una cosa che non abbiamo detto, perché noi chiediamo uno stato di diritto che comunque è uno stato di diritto della vostra I mapuci ci dicono questo, noi siamo qua a rivendicare un principio che è lo Stato di diritto, che è lo Stato di diritto della democrazia che voi ci imponete e manco ci votate, ecco. Così. Sì, qua, cioè, allora poi, qua, ecco. Qua siamo ovviamente, e lo sapete, siamo contro il carcere, vorremmo una società nella quale non fosse necessaria una misura come quella del carcere, no? Comunque la situazione del popolo mapuche, dei prigionieri politici mapuche in Cile già va oltre tutto, perché anche in una società che può concepire l'idea del carcere come forma di punire o di risolvere paradossalmente qualcosa, almeno dovrebbero essere rispettati alcuni diritti, penso io, no? Se ci troviamo d'accordo, qua siamo contro quelle misure, insisto, vorremmo sicuramente un'altra società che non abbia bisogno delle carceri, così di carcere non si muore e di carcere nemmeno si vive, quella sarebbe l'idea. Però qua dico, non rispettiamo manco le basi, no? Manco le basi. Manco poco le basi. No, cioè, no. Questo voglio dire, in così capite. Ciò, stiamo parlando, stiamo parlando di uno Stato. No, poi infatti vi potremmo leggere anche, no? Perché cioè, questa è una cosa. Sono le elezioni, allora mo ve lo dico subito, perché poi tu mi provochi. Allora. Ah, le elezioni. Scusa, no? Però. Allora, per esempio, te dico subito che c'è sta qua Mister Simpatia Boric. il candidato dello spazio progressista che ha detto subito certo che noi siamo progressisti, noi mica siamo come Piñera, però il popolo mapuche sono bravi quelli che lavorano, perché questi che danno fuoco alle cose a noi non ci piacciono e devono sapere, anzi ha proprio citato il nostro amico il lonco Juan Pichun, l'ha proprio nominato, gli ha detto caro Juan Pichun, perché il lonco comunque si sta facendo sentire dopo quello che è successo, insomma hanno giustiziato. Allora che succede? Che proprio veramente un attimo prima di quest'ultimo omicidio c'è stata l'uscita dell'autopsia della morte di Pablo Marchand. Pablo Marchand, ve l'abbiamo detto, è stato un compagno che è stato ucciso qualche settimana fa. Vi ricordate che noi abbiamo mandato il Travun e la riunione in cui vi abbiamo mandato l'audio dei due lonco e di una compagna che parlavano? Poco tempo dopo, proprio in quel territorio, uccidono un compagno, Pablo Marchand. Esce l'autopsia l'altro giorno, mentre esce l'autopsia di Pablo Marchand in Cile, che dice che Pablo Marchand è stato giustiziato in ginocchio con un colpo alla nuca. Il primo colpo gli ha preso un braccio, il secondo l'ha preso alla nuca, quindi insomma è stato giustiziato. Veniva ucciso un altro compagno mapuche in Argentina, insomma questo è quello che succede. E il lonco Juan Pichun ha tornato a prendere parola, noi l'abbiamo intervistato la settimana scorsa, ieri o l'altro ieri appunto Boric, mi vengono da fare paragoni ma sono imparagonabili e poi sono talmente terribili che non li faccio, però ha detto proprio: noi vogliamo bene al popolo mapuche, perché il popolo mapuche è un grande popolo, è un popolo che lavora, cioè quando fa lo schiavo ci piace, se poi però vuole recuperare i propri territori e si incazza pure fa alla cam, l'ha proprio detto alla cam, glielo dico a Juan Pichun, glielo dico, devi stare calmo perché non perdoneremo questi atti di violenza. Sì, piccola pillola di contesto, perché comunque è interessante. No, perché poi adesso sentiremo questi 4 minuti di audio che ci ha mandato poi la volta scorsa il lonco Juan Pichun. Sì, sì, certo, però appunto facciamo questa piccola pillola di contesto, perché come diceva Karina Riquelme, ci parlava dell'importanza di questo contesto in Cile, perché ci stanno le elezioni presidenziali, no? Va bene? In queste elezioni presidenziali alcuni dati così un po' grossolanamente: partecipazione, stiamo parlando del 47%, bene? Partiamo da questi numeri. Il candidato che ha preso più voti con all'incirca 28% è stato Katz, credo, una cosa del genere. Stiamo parlando di un uomo che, per quello che ho letto, addirittura da alcuni analisti politici, sta alla destra di Pinochet, per darvi un'idea, più o meno. Questo è il livello, no? E questo 2 anni dopo della rivolta in Cile, quindi uno veramente fa fatica a capire, io da fuori come e voi. Mentre qualcuno ancora, insomma, tutto un processo, no? No, ma e invece sembra che parliamo di 3 paesi diversi, appunto. Questo sembra, quando parliamo della convenzione costituente, quando parliamo e quando parliamo di queste cose, sembra che parliamo di 3 paesi assolutamente sconnessi, invece parliamo sempre del Cile. Faceva riferimento Marta a dichiarazioni del candidato, giustamente, dello spazio progressista. Cioè, sì, infatti si fa fatica a dirlo. Comunque è arrivato secondo con all'incirca 25% dei voti, ricordate, con una partecipazione del 47%. L'altra cosa che ci complica ancora, ci rende ancora più difficile la situazione per capirla e per analizzarla in Cile, almeno noi da fuori, io come argentino, anche se geograficamente sono nato, diciamo, molto più vicino al Cile, veramente a voi ascoltatori, ascoltatrici italiani e italiane, vi giuro che non capisco come voi, perché il terzo posto quasi con un 15%, un tizio che ha fatto ovviamente tutta la campagna, ha fatto tutta la campagna dagli Stati Uniti e non si è manco presentato per le elezioni, per i giorni delle elezioni, ha preso il 15%, un personaggio di questo tipo, un neoliberista di questi della scuola di Chicago, i Chicago Boys, che giustamente il Cile è stato l'alunno migliore, e questa è la situazione, no? Questo è quindi il panorama politico, istituzionale cileno, ma importante, e come diceva Marta, sembrano veramente tre paesi, no? Da una parte la rivolta, la costituente che sembra che può cambiare le cose, partecipazione dei popoli, dall'altra parte queste elezioni con questi numeri, con questi dati, con uno spazio, un candidato dello spazio progressista che adesso comunque, per come stanno le cose, ovviamente tutti tifano per loro, perché pensati che avere uno più a destra di Pinochet non è il meglio. Certo, il popolo mapuche questo non cambia niente, e questo ci dimostra, a questo voglio arriviamo al sunto, no, questo ci dimostra veramente la questione strutturale della quale ci parlava Karina Richelme, si vede qua, si palesa qua, il candidato dello spazio progressista con queste parole si è rivolto a, certo, i mapuches che si incazzano, sì, non a quelli che, no, chinano la testa e fanno i buoni, fanno l'Uncle Tom del Cile, esattamente, l'Uncle Tom, no? Sembra avere e lì uno percepisce, almeno io veramente, quando mi dicono, quando mi parlano di un razzismo strutturale, uno dice ma dai, stai esagerando, ma guarda, i fatti parlano, la destra manca, esatto. Tutti comunque ce l'hanno con i mapuche, tutti dimostrano quell'ignoranza, tutti lo stesso posizionamento, quindi mi sembra che l'analisi che parla di nuovo di uno Stato razzista, con una struttura razzista che si accanisce dalle forze repressive alle forze giudiziarie, alle forze amministrative, cioè tutto lo Stato, io ci credo, cioè le prove qua di fronte a me quando sento queste cose. Allora, io direi che ci sentiamo un bel pezzo così da 25 femminista mapuche. Dai. Perché noi facciamo anche questo. Chiaramente me l'ha mandato Geraldine, a cui io lo dedico. Lo dedico anche a tutte le compagne che ci ascoltano. Chissà se c'è qualche donna mapuche qui a Roma che ci ascolta, sicché altre donne cilene ci ascoltano. Allora questo lo vorrei proprio dedicare a loro. E poi invece torniamo in voce, perché avevamo tutte queste urgenze. Sapete, quando c'è una telefonata in diretta con l'altra parte del mondo non è sempre semplice, ce lo testimonia esattamente quello che è successo la settimana scorsa, ma noi appunto volevamo farvi invece proprio sentire la voce dell'onco Juan Pichun. Io intanto voglio aprire un'altra piccola parentesi, perché ne parleremo anche dopo, non so se riusciremo a fare un'altra telefonata, però oggi è un giorno molto particolare, oggi ci sono anche, oltre alla ricorrenza chiaramente della giornata contro la violenza sulle donne, per noi della rete oggi ci sono due anniversari, tutti e due abbastanza brutti. Uno sono i 4 anni dalla morte di Rafael Nahuel, no? Rafael Nahuel, torniamo a parlare di quel territorio argentino che ci lega a Facundo, che ci lega, no? Quindi Rafael Nahuel è un altro ragazzo che, insomma, parlavamo adesso di Pablo Marchand giustiziato alle spalle, e quando muore qualcuno la prima cosa che dicono la polizia è che era armato, e poi però tutti sono morti sparati alle spalle. Questo è successo anche per Rafael Nahuel. Rafael Nahuel era un giovane operaio che viveva in città, ma la sua famiglia viveva nella comunità. All'ennesimo tentativo di sgombero lui è andato su, proprio perché era generoso, a dare una mano, e questo è quello che è successo. E io ricordo anche che quando uccisero Rafael, tanto ancora era il trauma, lo shock di quello che era successo a Santiago, che il fratello di Facundo si preoccupò di esporsi pur di andare a prendere il corpo di Rafael per essere sicuro che non sparisse anche lui. Questo ve lo ricordiamo, perché poi il fratello di Facundo pagò, ebbe un processo, venne messo in mezzo in un loft, che comunque in una zona dove la persecuzione quotidiana è di un livello altissimo. Quindi noi vogliamo ricordare Rafael con la bellezza di quella che era la sua lotta di resistenza, con la bellezza di quello che hanno fatto i suoi compagni, e come ci diceva Karina, proprio con la fermezza di un popolo che, nonostante quello che ha davanti, il mostro gigante, forte e armato, non si ferma mai. Il secondo anniversario è di un prigioniero politico, diciamo sono 2 anni che anche lui è prigioniero nelle carceri, è giovanissimo e vabbè, vediamo se ne parliamo dopo con Geraldine, se no andiamo a dire qualcos'altro, però intanto mettiamo un pezzo così vi facciamo respirare. Confiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, caes a palo, caremón, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el piñel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa bullying nada. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Incluso dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basureado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra monien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuen. Católicos, evangélicos, nos dijeron brujos, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra, indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra, indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Si me muero por luchar, no pararé. En las hijas de mis hijas me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Chapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu y Chapayán. Sai hueque calfucura calfulican. Pelom charo, lef charo, maningüeno y quilapán. Con Pugua y Chapayán, entre nosotros están antiguas generaciones que vuelven a brotar. Agua con cloro al sur sequía, tierra con estría. Super superficial, así es tu mundo lineal. Guerrero antiguo a quienes no pudieron dominar, que defendieron el Gualmapo hasta la vida dar. Los ancestros no sabían que vendría la matanza. Contra la explotación del hidrofil mapu juntaron la lanza. Mundo circular, vuelve a renacer espíritu Guaychafe del ayer. La carne muere pero no el pensamiento. Mapuche Kimun en nuestra tierra está latiendo. La conquista sigue, el exterminio sigue. Peña encarcelado sigue, quien defiende la tierra te persigue. No pudieron controlar los Puyi ni Nehuen, como nuestro ancestro andamos siempre con la Gwen. Yo no tengo esperanza de vencer, solo pienso en vencer para tener esperanza. En esta tierra de cultura y tradición oral, sabe más de los españoles que de su propia historia. Por los siglos de los siglos se los maldijo, racista el Kimun seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu y Chapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu y Chapayán. Mi pueblo está de pie, no nos eliminaron, porque nosotros, nuestros abuelos se levantaron. Cerro cortado, territorio cercado, río secado, animales disecados, tu mundo avanzado. Perdí facciones de mi antepasado, pero no sus acciones, no sé por qué me las han entregado. Todo ha sido por algo, mi ratifón cabalgo, no para sobresalir, para desde sobresalir. Si me matan o el día en que me vaya, mi voz seguirá en los hijos de mis hijas con más acalla. Podrán encerrar a todos los Weichafe, pero su pueblo seguirá luchando contra esta catástrofe. Que vuelvan a nacer los Wifi Machi, Wupife, Werken, la Wentuche, Peñi, Sol. Que sabían que la religión de Europa llegó a esta tierra y del espíritu tener el control. Hay muchas formas de anestesiar un pueblo, pero pese a todo hay muchos siguen despiertos. Una no es ninguna, hay muchas vidas por vivir y en todas diríamos con más fuerza. Wehuain, la realidad es una guerra asimétrica, no se terminan de a poco en todos los sentidos. Por los siglos de los siglos se nos maldijo, la resistencia seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu y Chapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. 18-18 minuti, insomma, oggi l'avevamo detto che era un po' così, però almeno riusciamo a fare le cose con calma, invece di così affogarvi tra mille parole, riusciamo anche a godere un po' di musica. Allora, le cose che abbiamo ancora da fare, io rimarrei ancora un po' nel tema Mapuche, perché appunto la cosa che volevamo fare per prima poi alla fine è andata per ultima per una questione di tempi, però insomma vi ricordate la settimana scorsa noi avevamo la telefonata di giovedì scorso, era con il Lonco Kwan Pichun, che insomma è sempre un'emozione particolare, intanto anche complicata, perché infatti poi non siamo riusciti a farla, perché per chi non l'avesse sentita, perché noi abbiamo cominciato a parlare con Lonco ma cadeva la linea veramente ogni 2 minuti e mezzo. Alla terza volta che è caduta la linea, così io sarò paranoica e dietrologa, ma sapendo che il Lonco si trova in un territorio militarizzato più della norma, perché come sapete nel territorio che va tra Arauco, Mayek e Cautín, insomma, è stata lanciata questa operazione militare che all'inizio è stata chiamata un'operazione di emergenza. Chiaramente questa operazione militare deve contenere, affrontare, combattere quelli che sono i tremendi recuperi territoriali del popolo Mapuche che torna sui propri territori ancestrali. In quella zona, in questo caso, ci sono le forestali che sono molto forti, che sono la rappresentante in forma di società dei grossi terratenenti impresari, stranieri o locali che sia, diciamo che il potere cambia poco. Forse se sono stranieri ce ne hanno di più. Detto questo, le forestali non sono qui come da noi coloro che guidano, che in un certo modo si prendono cura dell'ambiente, sono tutt'altro, sono delle imprese private che fanno dell'ambiente, se fanno il sentiero per vedere il lago, per i turisti, il trenino, la cosetta, così, ma soprattutto tutto questo attraversano territori ancestrali dove vive il popolo Mapuche, quello non era, no, che è sempre esistito su quei territori. E l'ordine che è stato dato era di, appunto, di controllare, di isolare e di così perseguire. Quello che è successo è stato che noi vi abbiamo mandato qualche settimana fa, veniva chiamata una riunione tra le comunità che appartengono alla, che, diciamo, che hanno integranti delle organiche, che sono le organiche, ci sono le varie comunità e poi ci sono delle organizzazioni a cui partecipano persone delle diverse comunità, come per esempio la coordinadora Arauco Mayeco, che è quella gruppo che rivendica e fa azione diretta, formato da guerrieri, Weishafe, Mapuche e non guerrieri, che non significa che sono scemi, significa semplicemente che sono persone che non hanno avuto una propria crescita spirituale da Weishafe, perché il nome Weishafe si usa in una lingua Mapuche ed ha un significato specifico, senza nulla togliere agli altri, ma significa avere un'evoluzione, una crescita all'interno della cosmogonia Mapuche, della cultura Mapuche, del mondo Mapuche. E poi insieme a questi Weishafe ci sono stati tanti altri uomini e donne che si sono uniti come solidali, come persone che sono tornate dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni a riscoprire la propria radice Mapuche e a partecipare in questa lotta. E questo lo vedremo per esempio con quest'ultimo compagno che è stato ucciso in Argentina. Niente gli si leva a non chiamarli Weishafe, niente gli si leva, semplicemente si mantiene una differenza per ciò che appartiene a un mondo e a una cultura e ciò che appartiene a un'altra. Questo per dirvi che comunque dopo che c'è stata questa riunione ci sono state delle azioni sia da parte della polizia ed è stato ucciso un compagno, questo compagno appunto Pablo Marchand, l'autopsia dice che è stato giustiziato in ginocchio, palesemente proprio giustiziato, che era disarmato, che non aveva polvere da sparo sulle mani, quindi insomma tutto ciò che era stato detto in un primo momento di uno scontro armato è risultato assolutamente falso ed è un copione che ahimè abbiamo già visto tante volte in situazioni come questa. Tutto questo accadeva quindi durante questa nostra strana comunicazione. Prima vi abbiamo mandato l'audio di questo Trewun, di questa riunione, poi abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato questi fatti e finalmente potevamo parlare con Lonco Kwan Pichun. Chiaramente il Lonco nell'audio prima di quello che vi faremo sentire mi dice: scusami compagna, ma mi sembra chiaro che questo è un problema della militarizzazione, che stanno qui, perché altre volte avevamo parlato con lui e non era mai successo. E quindi ci ha mandato un audio in cui, devo dire, con molta sintesi, molta disarmante capacità di sintesi e chiarezza, ci racconta qual è, diciamo, più o meno la situazione attuale. Adesso andiamo ad ascoltare quindi l'audio di Kwan Pichun, prodotto purtroppo dell'impossibilità di sentirsi per bene la settimana scorsa. Ci abbiamo ora sì sull'87.9 sulla Schiena del Sol la sua parola. Thank you. y nuestra lucha. Va bene Mariano, allora ci dobbiamo arrendere a un problema di cavi che però noi surpasseremo. No, io pensavo che ce la facevamo. Adesso invece no, risolviamo. Adesso risolviamo, non te uomini e donne lavorando per voi che ci ascoltate sull'87.9. Potenti mezzi di una radio libera che vive delle vostre sottoscrizioni anche per comprare nuova tecnologia. Adesso ci arriviamo. Híbrido, chorizo, champurria, espera. Pero pesa más la sangre de la tierra. Si un apellido indígena no te aferras. La pureza es minoría, tontería. Siempre hay mezcla lo que vale es tu cultura hoy día. Champurria de Morfón, pero mapuche porque mantengo el fe y en tu ni el kimón. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo corra la modernidad. Con dos sangres sigue viva la oralidad. Champurria ni huella contra toda la maldad. Si desconoces tu origen no te sorprendas. Si lo borraron para que lo tuyo no lo aprendas. Champurria sin tugún, vuelo rume quimita mi mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Recuperar lo imposible, como el Efcharo cuando todo estaba inaccesible. No te rendiste cuando todo estaba invisible. Como el mestizo Alejo, yo me alejo del horrible. Hablaste mapuche cuando estaba todo en contra. No entables con huestaches que no te aportan. Verdad absoluta, purista, actúa como derechista. Destruye como la misma conquista. Mestizo moreno discriminado el doble. Frente a los colonos es un indio torpe. En la comunidad es finca pobre. Estereotipo pobreza espiritual enorme. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Pasan los siglos, sigue viva la oralidad. Champurria ni weichan. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Morfón, pero mi ser habla mapudungún. Bueno, nosotros como coordinador de Orocomayeco, nuestro interés como organización y nuestra lucha es contra el gran capital, porque nosotros somos una organización anticapitalista, autonomista, digamos, que desarrollamos nuestra política, nuestras acciones gira en torno a la reconstrucción del pueblo nación mapuche, del territorio mapuche, del territorio ancestral mapuche. Y bajo esa mirada, lo que hacemos es luchar contra las forestales, principalmente, que son los que han despojado a las comunidades del territorio, los que le han robado las tierras a nuestras comunidades, los que han secado las aguas en el territorio, los que han borrado gran parte del conocimiento sobre nuestra medicina ancestral, pero también son los responsables en que ellos conducen al país, inducen a los políticos a militarizar y a generar toda esta invasión contra nuestro pueblo nación mapuche. Pero también está el latifundio, los grandes latifunistas, los colonos, lo que llamamos nosotros, quienes son también los responsables políticamente de que nuestras comunidades sean violentadas, discriminadas y despojadas a la vez. Allora, vi traduciamo questa prima parte. Blocco diceva che appunto lui come integrante della CAM, la coordinadora Arauco Maieco, è un'organizzazione autonomista, anticapitalista. La loro lotta è una lotta contro il grande capitale, perché loro sono una nazione anticapitalista, questa definizione ha dato. Esatto, e le loro azioni sono per lo scopo della ricostruzione del mondo e del territorio mapuche. Lottano appunto contro le forestali, perché le forestali sono quelle responsabili di violentare, aggredire e cacciare il popolo mapuche dai propri territori, di seccare l'acqua dei fiumi, di distruggere il territorio, e sono quelli che hanno per esempio cancellato la conoscenza della medicina mapuche, tutta quella che era la trasmissione della cultura mapuche, e comandano il paese e no? Sono facendo responsabili, pressione, esatto, sì, i terratenenti, i grandi latifondisti sono i responsabili di fare pressione sui politici perché militarizzano le aree, militarizzino aree con le loro invasioni, e in questo caso appunto loro lottano contro le forestali che sono sul loro territorio. Continuiamo ad ascoltare a Juan Pichum. Eso es nuestra lucha. Y como es las forestales son objeto de nuestra lucha y de la expulsión del territorio mapuche, entonces se ejerce acciones de sabotaje en contra de las forestales. Y fue en esa una de las acciones que nuestra ORT, que nuestro huaychafe cayó, nuestro querido huaychafe Pablo Marchand, más conocido como Toño, le decíamos, como lo queríamos nosotros en el territorio. Bueno, ahí fueron responsables el Estado, este gobierno principalmente, con sus fuerzas policiales. Porque hoy día las policías se han transformado en las guardias privadas de los grandes conglomerados empresariales. Son ellos los que reprimen a nuestra gente. Hoy día tenemos una policía que le resguarda los intereses al gran capital, no así a la población más débil. Hoy día asesinaron, ajusticiaron a nuestro Peñi. Ahí ya lo tenían reducido, pero están mandatados para eso. Para asesinar a mapuche, para asesinar a nuestro huaychafe. Pero a pesar de eso, nosotros nos seguimos manteniendo, nos mantenemos firmes, nos mantenemos con convicción, y nuestros huaychafes van a continuar. Hay un refrán que decían: si uno cada día se levanta, y así va a ser, y así vamos a seguir manteniendo nuestra lucha firme hasta lograr la expulsión y volver a reconstruir el pueblo de naciones con todas sus normas, con todos sus principios culturales. Ahí estamos nosotros trabajando. Eso es nuestra línea de trabajo. Muchísimas gracias, Lonco, me da mucha pena. Ecco, chiaramente io ringraziavo, mi dava molto dispiacere insomma che non avessimo potuto parlare per telefono, e lo rassicuravo che il suo audio sarebbe stato mandato qui. Chiaramente appunto il Lonco ci continua a dire che sono le forestali il loro obiettivo e quindi lotta. E per esatto. Questo si fanno queste azioni, ovviamente di sabotaggio, ce lo dicono spesso, loro sabotano gli autobus, insomma le macchinarie, come perché dicono. Il nemico è quello. E il nemico è quello, e proprio in una di queste azioni di sabotaggio che avveniva in quei giorni è stato ucciso il huaychafe Pablo Marchand, come lo chiamavano loro nella comunità. Il soprannome era Togno, insomma un modo molto affettivo per far capire veramente l'unità, la gioia in questa lotta nonostante sia dura. È stato giustiziato nonostante già lo tenessero immobilizzato, gli hanno dovuto sparare. A responsabili sono lo Stato, il governo, la polizia, che è stata trasformata in guardie private degli impresari, perché a fare quell'azione probabilmente non c'erano, non sono più, lui dice, la polizia non è come dice la loro democrazia, no? È lo stesso discorso che ci faceva Carina dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto non è una cosa che appartiene al popolo mapuche. Il popolo mapuche viene costretto a sottomettersi a vivere in uno stato che ha inventato lo stato di diritto. E allora, se io sono costretto qua, che mi si dia la stessa cosa, no? Se avete inventato la polizia, deve proteggere i più deboli, che lo faccia. Ma invece i Mapuche ce lo possono dire, non so come dire. Sì, sì, ma invece dice, invece sono diventate le guardie private, sì, dei grandi empresari, il grande capitale. Esatto, sì. Tonio è stato ucciso nonostante già fosse immobilizzato, già potevano portarlo via, arrestarlo, ma questo perché questa polizia viene mandata per uccidere il popolo Mapuche, non per prenderlo. Quello. E questo è quello che fanno, ma nonostante questo loro ci troveranno firmes, fermi. C'è una frase, sì, c'è una frase che dice, per uno che cade 10 a 1000 si alzeranno, e questo è quello che accadranno, e continueremo con quello che sarà il nostro lavoro di ricostruzione. Uccidono un compagno, ne nascono altri 100, sì, qua moltiplichiamo, insomma, ancora. Moltiplichiamo, ma insomma, però l'idea, l'idea è quella, ovviamente, la loro lotta vuole arrivare a la ricostruzione del territorio, della cosmovisione Mapuche. Non è poco. Sono convinti, sono coerenti, questo va rispettato, mi pare, almeno di fronte dopo a, diciamo, un nemico come quello dello Stato cileno. Guarda che ci vuole poco per capire che c'è il torto, di nuovo. Non situazioni analoghe, diverse, ma come sappiamo che in realtà, e lo sappiamo che in realtà ci vuole poco per capire chi c'è il torto tra il popolo palestinese e lo Stato sionista dell'Israele, no? Veramente, due, tre neuroni più o meno funzionanti, ancora un po' di coerenza, un po' di onestà intellettuale, forse un pochino di onestà intellettuale ci vuole, ma ci vuole poco, non tanto, guarda che non è una fatica così grande, con un po' lo stesso. Questo è l'obiettivo e lo scopo di questo popolo, ricostruire la loro cosmovisione, la loro forma di vivere, di recuperare un territorio, addirittura con questi termini che forse per noi compagni ci stanno vicini, di una forma anticapitalista. Esatto. Importante, lo ha detto, perché forse qua c'è qualcuno che ancora, no, si chiede delle cose. Sì, ma poi anche l'anticapitalismo viene motivato, cioè il popolo Mapuche ce l'ha sempre detto, ce l'ha detto, ce l'ha detto anche l'onco Yadu quando è intervenuto con noi, cioè noi non siamo, non nasciamo anticapitalisti, ma se il nemico che ci opprime è il capitalismo, noi siamo anticapitalisti, mi sembra processo, semplice e lineare. Un processo dialettico, mi pare, esatto. Addirittura. Detto questo, io non faccio in tempo adesso, Jerry, a mandarti questa canzone, ma giuro che dopo te la mando. Manderei un piccolo brano perché vorrei invece tornare un momento. Abbiamo parlato tanto del caso di Mattia Giordano, abbiamo detto l'altra volta che ha ottenuto invece lui le misure alternative al carcere, aspettando comunque l'inizio di un processo che sarà duro e pesante, quindi insomma la festa è relativa, ma comunque sempre meglio che dentro una lurida cella. E invece vorremmo vorremmo veramente un attimo tornare a parlarvi di Felipe Santana, perché sappiamo che non è un momento semplice per lui. Sono già due anni che è in carcere, e i due anni, insomma, anche lì il percorso giudiziario è lungo e tortuoso per giovani che veramente hanno vissuto costretti ai margini di una società veramente devastata, e adesso, insomma, dopo essere esplosi in una rivolta con il loro popolo, in questo momento io capisco che si può sentire un grosso senso di abbandono con tutto quello che stiamo raccontando in Cile. Quindi volevamo tornare a parlarvi un attimo del caso di Felipe Santana, e poi andiamo finalmente a chiudere le schiene del Soul. Dai, allora. Che ci sentiamo? Sempre Luanco oggi a farci compagnia, continuiamo con lui. Los guerreros de la tierra, si olvidaste tu cuna te vacunan, te imponen mentalidad, te manipulan, mi cuna madriguera, yo grito por ella. Vabbè, un po' ci stanchiamo pure noi, siamo più vent'anni della morta. Se tu cuna te ridi. Imponen mentalidad, te manipulan. E lo vogliamo mandare, chissà se ci sta ascoltando. Glielo mandiamo un saluto al nostro Victor. Ma sì, sì. Tra l'altro mi ha mandato un sacco di notizie, lui chissà. Un abbraccio. Dov'è? Gigante, infinito. Gigante, per infinito. Per Víctor. Cerro, río, cascada. olor a harina tostada. Es el cariño de manos arrugadas. Mi cuna es otro idioma, otra fonética. Es sabiduría y no estética. Mi cuna es mi origen, mis errores me corrigen, mis pensamientos me exigen. Mi cuna tiene ancestro y gente sabia, hierbas, medicinas que sanan y huesache que apuñalan. Mi cuna tiene traidores que la matan. Mi cuna tiene dolor, está sufriendo, pero hay huechafe que están defendiendo. A mi cuna le inyectan virus como una vacuna, así que funa, despierta que la vida es una. Al bebé que lo apartan de su cuna, sabe mucho menos de su cultura. Por eso hay mestizos que se creen gringo, entrando a la cuna de los ricos. Mi cuna madriguera y un grito purilla, libertad a los guerreros de la tierra. Si olvidaste tu cuna te vacunan, me imponen mentalidad, te manipulan. Mi cuna madriguera y un grito por ella, libertad a los guerreros de la tierra. Si olvidaste tu cuna te vacunan, me imponen mentalidad, te manipulan. Cuando desconoces tu cuna se busca afecto tras caricias, te aferras a una cuna ficticia, como drogas, lujos que te envician, memoria se asfixia. Mi cuna no es hipismo ni culturalismo, mi cuna no es rapear por protagonismo, mi cuna es organización del pueblo mismo, mi cuna no es pensar como el colonialismo. Mi sueño no es viajar a Europa dando tour, sino hablar mapuche como abuelo del sur. Mi cuna no es un reventón ni andar con caña, mi cuna es un yeyipun en la montaña. Mi cuna no es un terno ni una gala, es una manta y estar a pata vela. Mi cuna es pasar obstáculos de chico, mi cuna es conmigo ser el más crítico. Mi cuna es luchar como un guerrero, como todos los que esta tierra defendieron. Invasión de ley y empresa en exceso, y quien se opone está preso. Mi cuna es la memoria y el feyentún, mapudungún en la pena despiértalo tú. Mi cuna es el chilcatún y que renaca, el kimun fresco como nalca. Mi cuna madriguera y un grito purilla, libertad a los guerreros de la tierra. Si olvidaste tu cuna te vacunan, me imponen mentalidad, te manipulan. Mi cuna madriguera y un grito por ella, libertad a los guerreros de la tierra. Si olvidaste tu cuna te vacunan, me imponen mentalidad, te manipulan. E allora, come vi dicevamo, volevamo così parlare, così ancora quest'ultima manciata di minuti, di Felipe Santana. Insomma, ormai è passato un po' di tempo da quando ve ne abbiamo parlato l'ultima volta. Come sapete, come Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, non solo ormai dopo la rivolta, ma insomma anche prima, non riusciamo a fare un discorso anticarcerario che riguardi solo il popolo mapuche quando si tratta di Cile. È lunga la storia, ma chiaramente durante la rivolta poi si sono aggiunti compagni e compagne, entrati in carcere anche giovanissimi, e nonostante ci sia una grossa organizzazione a seguirli, poi quando sono circa 2500, insomma adesso ancora detenuti credo qualcosa in più di 2000, che hanno i processi aperti, chi con le misure alternative, chi no, come ho detto di Matteo Giordano, che invece no, non le ha avute. Il lavoro, insomma, noi cerchiamo di unirci a questo grosso lavoro, ci fa piacere essere presenti e cerchiamo di farlo con quelle che sono le cause che si ha più difficoltà, perché spesso ci sono le famiglie che riescono a fare da ponte in questo grosso lavoro, e poi c'è chi invece una famiglia non ce l'ha, c'è chi invece sta in un posto più distante, dimenticato da Dio, in un posto dove casomai i prigionieri sono meno. Insomma, non credo che ci siano responsabilità specifiche, se non veramente un grosso lavoro auto-organizzato che fa veramente delle cose enormi. E con orgoglio ci siamo dentro, tra i casi appunto che abbiamo seguito, l'avete sentito, abbiamo passato tanto tempo a parlarvi di quello che era stato il caso di San Antonio, e comunque insomma continuiamo ad avere attenzioni per casi che riteniamo ne abbiano più bisogno, e tra questi c'è quello di Felipe Santana, che è un prigioniero giovanissimo, ha solo 20 anni e già oggi sono 2 anni che si trova detenuto. Io vi torno a leggere quello che è stato il breve comunicato che abbiamo scritto come rete per Felipe, giovane cileno detenuto il 14 novembre del 2019 durante il contesto della rivolta in Cile, che è stato accusato di bruciare una panchina del Duomo della città di Puerto Montt, dove appunto si trova detenuto e dove sappiamo che insomma stanno anche facendo dei sit-in. Felipe è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di prigione politica, accusato di diversi delitti che non sono mai stati provati. A soli 20 anni questo prigioniero politico della rivolta del 18 ottobre dice con molta convinzione che l'unica cosa che lo ha spinto a scendere per strada e lottare è stata la volontà di ottenere dignità per il suo popolo. Ora in carcere si trova a resistere all'oppressione dello Stato. Il suo avvocato ha presentato ricorso per la libertà, insomma noi sappiamo, abbiamo raccontato quali sono state un po' le sue vicende e chiaramente in questo comunicato esprimevamo la solidarietà. Felipe comunque è una persona che nel corso della sua vita ha un po' diciamo provato quella che è vivere in una società cilena che ti costringe ai margini se tu non nasci con certe fortune, e quindi pensiamo che ancora di più gli vogliamo stare vicino. In più, come dicevo prima, a Karina parliamo di vite umane dentro i carceri, parliamo di persone, quindi noi spesso ci perdiamo attraverso i termini giuridici, le questioni giuridiche, ma poi insomma ci sono momenti in cui ci va di stargli vicino anche semplicemente umanamente, semplicemente casomai dedicandogli una canzone. E allora un pochino è quello che abbiamo fatto le altre volte, vorremmo cercare di dedicargli una canzone, vediamo se io mentre vi parlo la riesco a scrivere, però insomma vi diciamo anche che se volete sulla nostra pagina mapucheit.wordpress.com potete leggere un po' quelle che sono la storia di Felipe, la storia di Mattias, insomma la storia di questi ragazzi, e diciamo anche mandare un segno in qualche modo, chiederci come raggiungerli, fargli chiedergli l'amicizia su Facebook, questo, oppure scrivergli con qualcuno di questi media strani, perché per assurdo sappiamo che diciamo l'emergenza sanitaria adesso funziona, che per esempio quando non hanno i colloqui i detenuti possono avere il telefono, e questo fa sì che col telefono loro possono riuscire ad avere tutto un tipo di comunicazione che prima non era assolutamente possibile, quindi a volte ci si riesce ad arrivare molto prima di come si poteva fare una volta, ci si riesce a comunicare in maniera assolutamente più semplice. Allora io cerco di scrivere questa canzone che vorrei appunto dedicare a Felipe Santana in questo momento. Quale? È una canzone della Lira Libertaria che comunque sempre ci piace, sentiamo spesso ultimamente. Sì, no, veramente, anzi, eccola. Continuiamo a consigliare l'ascolto della Lira Libertaria. Sì, tra l'altro appunto, ecco, sono al telefono, va bene, allora rimanderei la Lira Libertaria, intanto ci prendiamo una pausa, rispondiamo al telefono e torniamo in voce tra pochissimo. Viejo mundo obsoleto y otro nuevo mundo que se abren. Nunca seremos los mismos, nada será como antes, y no es que lo diga yo sino la calle. Hay que entregarse a lo incierto, darle sin saber a dónde vamos. Y eso es lo más lindo, todo es posible en el caos, si la brújula apunta a todo lado. Y esas son bengalas, son estrellas, son loñen del cerro o cámaras voladoras, me pregunto yo. Y si fueran estrellas fugaces no les pediría nada, ni un deseo, ni una cosa. Resistiendo al fin de toda una era, primavera loca. Sotto 51, torniamo in voce, perché poi insomma avremo parlare anche con Futopia dopo la schiena del Soul. Insomma, il tempo passa, noi l'abbiamo presa comoda perché va bene così, ma insomma il tempo poi è tiranno. E allora noi volevamo veramente, insomma, abbiamo parlato di depressione, abbiamo parlato di Pablo Marchand che è stato giustiziato, e non possiamo non parlare di quello che è successo, fermarci un attimo a parlare di quello che è successo a Love Can True. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, insomma delle notizie ve le abbiamo date, c'è un po' ancora di confusione sotto al cielo, perché ahimè non sempre è semplice. Vai, ricordiamo, Mariano, perché poi questo quasi due mesi fa annunciavamo questa situazione, l'Ofken Can True, in un recupero di territorio, si vede, diciamo, chiuso dalle forze repressive della provincia di Rionegro, le forze speciali della polizia della provincia. in questa situazione, dicevamo, e noi commentavamo, i compagni non avevano la possibilità di avere nessun tipo di aiuto, non permettevano nemmeno di fare un corridoio umanitario in questo senso, con condizioni già climatiche difficilissime, come sempre lì in quella zona della Patagonia, e si arriva a questa situazione che diciamo è continuata giustamente in tutti questi giorni. Stiamo parlando di quasi 2 mesi, non potrebbe entrare nessuno. Una situazione, per quello che ho letto io, confusa ovviamente, cioè dopo non ci vuole tanto, uno non ci mette tanto per arrivare veramente a quello che è successo, però si parlava di 2 uomini che stavano cacciando là in quella zona. Ma se non si può passare, perché questi stavano cacciando? Si parte da quella base, questa è la prima domanda. Questa è la prima domanda. Se lì stanno tutti isolati, che non può passare nessuno da 55 giorni, com'è possibile che si sono due cacciatori X? Che quindi sono stati fermati da Elias Garay, la vittima fatale, e un altro compagno, che gli hanno fatto sapere che lì non si poteva cacciare perché era un territorio recuperato mapuche, eccetera eccetera, sono stati uccisi. È stato ucciso Elias Garay, l'altro compagno è stato gravemente ferito, e questo è successo la domenica scorsa. A partire da quel momento ovviamente si vede un peggioramento terribile della situazione, perché stiamo arrivando di nuovo a un morto. Si parla di nuovo della famosa terzerizzazione della repressione, no? Perché non si capisce. No, infatti, poi oggi abbiamo un problema tecnico per cui non vi facciamo sentire degli audio, però credo che giovedì prossimo vi rifaremo sentire, usciranno altre notizie, succederanno altre cose, quindi ecco, diciamo che abbiamo del materiale che oggi per un problema dei cavi non vi facciamo sentire, ma insomma torneremo a parlarne sicuramente. Sicuramente non si capisce, una grossa confusione. Allora non è possibile che poi ci sono delle regole rigide e poi la confusione, no? Quindi ecco, vai. Sì, c'è un po' di informazione, diciamo, nuova. Perché? Perché la PM, la fiscala, quindi il procuratore incaricato, la procuratrice Sendon, ha ordinato 2 catture, no? Rispetto, o meglio detto, in base alle informazioni che ha dato Gonzalo Cabrera, il superstite, dicevo, di questo attacco, la persona che è stata gravemente ferita, e quindi un testimone che ancora continua ricoverato in ospedale dagli spari che ha ricevuto. Così lo ha detto la segretaria di Stato di Sicurezza e Giustizia della provincia di Rio Negro, Betiana Minor, intervistata giustamente da, per esempio, Anred Redacción, uno dei tanti mezzi di comunicazione, dicevo io, alternativi in Argentina, che veramente hanno cominciato a parlare molto di più di questa vicenda. Dalla parte, certo, delle istituzioni, dei rappresentanti delle istituzioni, soprattutto a livello nazionale, silenzio. Comunque, dalle organizzazioni, dai collettivi, per fortuna si è vista molta solidarietà. Di nuovo, ricordiamo che un po' di informazione parla del calibro, che è stato un 22, con il quale è stato ucciso Elias Garay, è stato ferito Gonzalo Cabrera, e si chiedeva come è stato possibile, come è possibile che sono arrivati a quel territorio, e come addirittura sono riusciti a uscire del territorio queste 2 persone che si trovavano là. Stiamo parlando di persone, di cittadini civili armati, che comunque, oltre al cerchio del COER, questa forza repressiva speciale della polizia del Rio Negro, sono riusciti a entrare e, insisto, a uscire. Il COER si trova là per ordine del giudice Arrien. Qui sono un po' alcune delle novità rispetto a un'altra uccisione di Stato, in questo caso nella provincia del Rio Negro, nello Stato argentino, nel territorio mapuche occupato dallo Stato argentino. Elias Garay, una nuova vittima, un giovane, ventenne, per esempio. Che insomma, il compagno che è stato operato martedì, che è in condizioni abbastanza gravi, è stato operato allo stomaco, perché è stato colpito allo stomaco. Sappiamo che il compagno che è stato ucciso è stato colpito allo stomaco. Questo ci fa pensare a persone che sparano ad altezza d'uomo, questa altezza da lì in su, diciamo che non si spara sicuramente in aria. Quindi, quindi voglio dire, veniamo appunto dalle storie che vi abbiamo appena narrato, veniamo da una narrazione che non ci sono leggi di riconoscimento o meno dei popoli indigeni che facciano la differenza, non c'è cordigliera delle Ande che cambia atteggiamento da una parte e dall'altra, non c'è giustizia che abbia una dignità diversa dal nulla da una parte e dall'altra delle Ande. Sì, anche la confusione è sempre quella dell'attenzione a recuperare il corpo, a far sì che i corpi siano presenti, che si possano avere delle autopsie importanti, perché pesa. Lo ricordiamo, il Lough Can Ken True è quel lough assolutamente vicino alla zona calda del pool of resistenza, del pool of resistenza di Cushamen, che sicuramente io posso immaginare, insomma, anche dalle voci, sono compagni che sono andati a dare la solidarietà, che si fa la lotta insieme, insomma, si fa la resistenza insieme. Quindi stiamo parlando di poteri che sappiamo come si muovono, sappiamo quanto possono cambiare poi la realtà di quello che è successo. Torno a dire che la storia di Rafael Nahuel, piuttosto che quella di Santiago, così come quella di... No, possiamo fare tanti esempi, che non hanno più un Cile e un'Argentina, perché vediamo che di fronte al popolo Mapuche l'attacco è quello. Sì, vedete che non cambia tanto se c'è una legge o meno che riconosce, che rispetta o che dovrebbe far rispettare... No, questa o l'altra cosa, soprattutto quando si parla dei popoli originari. Vi dicevo io che, almeno per quello che ho percepito nella mia bolla virtuale, ho visto tanti mezzi di comunicazione alternativi. Vi avevo riferito per esempio l'Adfem Noticias, che parla giustamente di questo recupero territoriale nella Cuesta del Ternero, vicino al Bolsón, provincia di Rio Negro, e dice questo sito che la risposta che ha dato il potere giudiziario, no, e il governo particolarmente della provincia di Rio Negro, è stato veramente smisuratissimo rispetto a quello che succedeva, che era un recupero territoriale. E fa, ed è interessante quello che propone l'ATFEM, dice: guardate che c'è una differenza tra prendere le terre e fare un recupero territoriale, che vuol dire esercitare un diritto. E per questo dicevo, non cambia tanto se c'è una legge o meno che rispetta questo o l'altro. Perché? Perché la Costituzione Nazionale dell'Argentina, che è stata riformata nel 1994, ordina riconoscere la possessione e la proprietà comunitaria delle terre che tradizionalmente occupano i popoli originari, no? Le comunità indigene. E addirittura ordinava la Costituzione, questa riforma del 1994 della Costituzione Argentina, ordinava regolare la consegna, no, altre terre, scusate, che siano adatte e sufficienti per lo sviluppo umano. Così dice la Costituzione Argentina del 1994. Certo, in questo periodo di 27 anni che è stato da quella riforma della Costituzione, nessun governo ha consegnato giustamente i titoli di proprietà comunitaria e nemmeno ha rispettato la seconda parte del mandato costituzionale, non gli è stata, diciamo, i Mapuche stanno sulla loro terra da millenni, non è che c'è un pezzo di carta scritto, io vivo qua da sempre, e arriviamo noi, diciamolo così, arriviamo noi adesso. In questa costituzione riforma c'è stato scritto che non solo non è stato messo scritto che sto pezzo di terra appartiene al popolo Mapuche, finalmente lo mettiamo, che doveva essere fatto, che si ordina, diciamo, ma si ordina anche di dire: se quella terra non gli basta e cominciano a star stretti, tocca dargli un altro pezzo. Non viene fatto né una cosa né l'altra, quindi non si capisce poi sta riforma. Questa è la cosa, cioè, anche nella logica delle leggi del Winca, diciamo, dell'uomo occidentale, nemmeno il Winca è la definizione mapuche dell'uomo bianco nella peggiore accezione, proprio l'uomo bianco che è arrivato, ti ha sputato in faccia, ti ha distrutto, ti ha devastato, ti ha violentato, ti ha cacciato dal tuo territorio, eccetera, cioè il colonizzatore. È il colonizzatore, il conquistador, certo, però dico, nemmeno in quella logica del Winca che accetta, perché la Costituzione argentina dice quello, quindi c'ha, certo, livello costituzionale, un diritto va rispettato, punto e basta, non c'è discussione. Ma infatti noi così. E comunque vedete, in Argentina succede questo anche con una legge. In Cile non c'è questa legge, non cambia niente. No, infatti. Cioè non cambia tanto la diciamo situazione. Se cambia in peggio, ecco. Sì. Però ecco, là dove si può. Ci abbiamo, non so se vuoi. Sì, io direi dritto, perché il tempo passa, andrei dritta. Perché infatti sono le 19 e sì, un minuto primi di questo infatti, giovedì 25 novembre, la schiena, esatto, del Sol sull' 87.9. Proprio essendo il 25 novembre, io vi vorrei far sentire una cosa brevissima di 2 minuti, che se volete facciamo un minuto, ve lo traduciamo e poi un altro minuto, di una voce speciale, che è quella della Huercán Anna Catrileo, appunto una Huercán, quindi un'altra figura autorità mapuche, tornando a dire che l'autorità mapuche, diciamo nella cosmogonia mapuche, nell'intenzione mapuche, non è un'autorità in autoritarismo, quindi non è una che comanda o che ordina. Autorità è laddove si riconosce un'abilità. Tu sei capace a far nascere i bambini, tu sei capace a fare il guerriere, tu sei capace a fare questo, e quindi si acquisisce una autorità in quella cosa. E lei, appunto, la Werken Anna Catrileo dell'OFF Quancun Rin della comunità di Temuco, che il 22 novembre, durante una marcia contro la militarizzazione nel World Map, appunto, la militarizzazione di cui vi veniamo parlando da settimane, appunto, ha lasciato un messaggio per il popolo mapuche con un'enfasi speciale alla Sdomo, quindi alle donne mapuche. Andiamo a ascoltare, dai. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, e Inche Ana Catrileo España, de los Juan Currín, de la Guardia de Mucumeu, Huerquén de la comunidad mapuche Juan Currín número uno, de nuevo. Mandé un saludo a las Lamienes, porque las Domos somos las que más sufrimos en el tema de la, de lo que es la resistencia, porque nuestros huentros andan escondidos, algunos en clandestinos, otros trabajándoles desgraciadamente a alguna empresa privada, y lamentablemente el Estado ha sido oído sordo. Tanto la derecha como la izquierda siempre ha asumido su rol como gobierno, avasallando, queriendo exterminar nuestro pueblo, nación mapuche. Nosotros insistimos en que la mujer tiene un papel fundamental en toda esta historia, porque nosotros como Lamienes tenemos la historia, la sabiduría de enseñarle a nuestros hijos el mantener la resistencia, el mantener el kimun, que dice el mapuche, el ragifan, para poder seguir nuestra herencia, como se dice. Allora mi fermo. Allora, lei subito parte facendo un appello in particolare alle donne mapuche, perché sono quelle che più soffrono tutta una serie di cose che riguardano l'esistenza del mondo mapuche all'interno di una comunità capitalista. Perché? Perché soffrono intanto il fatto che la persecuzione politica costringa molti uomini alla latitanza, spesso al carcere, e poi perché il sistema capitalista spesso li costringe a lavorare nelle imprese, ed è una cosa che viene letta proprio come una schiavitù, non rientra nel sistema, ma la sopravvivenza te lo richiede. E poi perché questo è, diciamo, le donne sono quelle che nelle comunità mapuche hanno l'incarico di trasmettere ai propri figli, esatto, educare. Dall'altra parte dice che pure lo Stato non ci ascolta. Sì, no? Esatto, lo Stato non ci ascolta, non ci fa. Da sinistra a destra tutti ci vogliono sterminare direttamente. Tutti ci vogliono sterminare, e per lei parte di questo sterminio è doversi abbassare a entrare in un sistema che è quello di dover lavorare per una multinazionale. E per questo la donna è molto importante in questo ruolo di insegnare, di educare, di tramandare la loro cultura. Mantener la lucha y mantener la tierra siempre, nunca vendía, siempre estando ahí, como tierra, como Gualmapu libre. Eso, bueno, y igual darle las gracias a los Lamienes que me invitaron también, como los Juan Currín, como Bruquén, esto todo lo va a saber mi comunidad, y también vamos a hacer un tragún de Lamien Domo, que estamos trabajando, estamos organizándonos para poder trabajar, ya sea la semilla, como dice la Lamien, que hay que cuidarla. Hay que cuidar las semillas porque los monos santos están queriendo ser dueños de todo lo que es las semillas nuestras, que son del pueblo mapuche. Chaltumay, Peucayal. Allora, chiaramente lei dice, appunto, ci stanno sterminando, no? Le donne sono quelle che trasmettono la cultura, trasmettono i valori, trasmettono il modo di essere guerriero, di assumere le autorità, di quindi mantenere la lotta in mantenere territorio. La lotta, esatto. E tra l'altro annuncia che loro dopo pochi giorni avrebbero fatto un travun, sì. Avete imparato ormai quella questo termine, l'idea. Che significa un incontro tra le domo mapuche, quindi tra le donne mapuche, per ritrovarci sui discorsi di quelli che sono i semi e la coltivazione, perché sono attaccati dai semi della Monsanto, che vuole essere padrone di tutte le coltivazioni del mondo. Scusa, lo devo dire, dall'Africa alla Latino America, che sia meticcio, indigeno o comunque bianco, le donne che scendono in piazza e che si appropriano del femminismo e del transfemminismo sono quelle che difendono le proprietà alimentari, la sovranità alimentare, la ricchezza della moltiplicazione della differenziazione dei semi e del sì. Coltivo, perché la fame la fa passare a mamma. No, scherzo, lo dico così. ma è una ricchezza culturale assolutamente unica. E quindi lei ringraziava anche le donne che l'avevano invitata e che riconoscevano il suo valore di autorità come Verken, e appunto ci parla della Monsanto, che ancora non era mai stata nominata. Infatti seguiremo questa cosa, perché come vi dicevo appunto la Verken Anna Catrileo, quest'audio è stato registrato il 22 novembre, 2-3 giorni fa a Temuco, durante appunto una marcia solidale che credo sia quella che poi è finita sotto al carcere. Siamo arrivati praticamente alla fine. Siamo arrivati alla fine, anche vogliamo se avremmo altre qualcosa? Cose. Sì, tanto. Ma sentiamo un po' di musica. Eh sì, e non avremmo finito, capito? Ci sarebbero gli audio, se funzionava sto cavetto arrivavamo alle 8, però capisco pure che non si può fare. Abbiamo tante altre cose. E pensati che ci è mancato Eder oggi. E c'è mancato il suo buongiorno. Il suo buongiorno, in effetti buongiorno. Mancato. Gli mandiamo un saluto pure a lui. Grande Eder, il suo buongiorno alle 5 di sera con questa notte già buia, in questo inverno praticamente. Cosa andiamo ad ascoltare, Marta, prima di non lo chiudere? So, perché sono un po' impreparata, ma forse... Io c'avevo qualcosa qua, ma boh, non so. Guarda, io... Ah, sai cosa volevo dire? Questa cosa, visto che l'italiano è una lingua così molto, molto ricca, anche per farlo capire, no? Meglio ancora, dico, stiamo parlando delle autorità mapuche in quanto acquisiscono autorevolezza. Non c'era la parola che bravo. No, mi è venuta, ha detto cacchiarola, io la conoscevo questa pure in italiano. Bravo, a me non mi veniva prima. Perché per dico, sono autorità non perché esercitano un'autorità, no? Tra virgolette, se volete, repressiva. No, no, è un'altra cosa, autorità in quanto acquisiscono autorevolezza, no? Nelle loro comunità. Di quello si tratta, così, come diceva alla fine, come dice, come continua a dire il zapatismo, mandar obedeciendo. Si tratta di quello, c'è una differenza, ovviamente ci sono dei ruoli nelle società, nelle comunità, però a ognuno, no? Secondo i bisogni e secondo pure le proprie possibilità, no? Alla fine vedi come da una parte all'altra tutti stiamo parlando dello stesso in quanto a metterci d'accordo. Va bene, questa... Ma dovrebbe essere così. Le parole di Anna Catrileo, della Verken Anna Catrileo, io così era per tornare a questa giornata del 25 novembre, di cui adesso, insomma, chiusa la schiena del sole, andiamo ancora a darvi delle notizie e poi torneremo un momento a parlare di Foodopia, perché domani, come sapete, c'è il secondo appuntamento, si parlerà di cioccolato. Oh, buono. E allora lì tutti alzano le orecchie. Però, insomma, sto cioccolato può far bene, può far male, tocca vedere come si mangia, ma noi vi riempiremo di domande per darvi poi delle risposte. Lo faremo insieme a Mauro Serafini, insomma ideatore, nonché così il commenda di turno. Grazie. Spero che non si offenda, lo prendo un po' in giro. Però insomma io vorrei chiudere invece uscendo da tutto questo e entrandovi sul 25 novembre sì. Come un pizzone. Allora intanto mettiamo questa e poi facciamo i saluti. Vai. Que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. E insomma, Cioccolate Remix, diciamo anche questo video. È una pezza. Forte. Ma insomma, voi avete sentito la canzone, andatevi a vedere. Insomma, il è video. Forte, è una pezza. Ma purtroppo è la realtà. Quindi è una pezza. Però, insomma, poi che facciamo? Apriamo il giornale e che leggiamo? No? Io so che adesso oggi 108, a Milano facevano. No? Sì. 108 quest'anno. Stiamo a 108, insomma, e poi cioè, ecco, c'è una cosa che io, se devo dire, i brividi sui brividi, no? Adesso così. Credo che sia l'ultimo, perché poi sono passati 3 giorni, quindi chissà, casomai non è manco più l'ultimo, che c'è stato a Reggio Emilia, di questa ragazza di origine sudamericana che è stata uccisa da quest'uomo che a sua volta era stato, la madre era stata vittima di femminicidio. E quindi io dico che il femminicidio in sé replica la violenza macista. No, immagino, perché il lavoro non viene fatto su questo, le persone non si svegliano da sole. E quindi va bene, mi sono venuti i brividi. Mi ha fatto pensare a un film incredibile che ho tradotto. Ma no, insomma, questo poi bisogna un po'. Comunque, che dire, è inutile che siamo qui adesso. Insomma, abbiamo mandato questa donna mapuche che mi sembra che dica delle cose chiarissime. Sicuramente le donne indigene, così, no? Abbiamo parlato di intersezione delle lotte. Il femminismo ha cambiato tante facce nella sua evoluzione in questi anni. Si è aperto là dove c'è stata la capacità e la bellezza di aprirsi. Rimane che però, appunto, la solidarietà, la complicità si fa sempre tra persone vittime della violenza patriarcale. Questo non bisogna dimenticarselo mai. E che, ahimè, la violenza patriarcale non si cura da sola, perché chi è vittima, no? Chi si trova la madre ammazzata di violenza, no, perché non si tratta di, diventa automaticamente, cioè, esatto. Per ogni, diciamo, carnefice non si tratta di un malato, di un pazzo, di un folle, come si dice, o di un amore malato, no? Appunto, quindi per questo non si deve anche in questa cosa scaricare sull'individuo il problema. C'è una cultura, c'è un problema strutturale, lo dobbiamo affrontare come società. Ci stanno alcuni, ci stiamo alcuni che dovremo perdere dei privilegi, lo dobbiamo capire prima che poi, no? Quindi si deve veramente ribaltare una situazione in questo senso. Per questo non scaricare la colpa sui singoli, sui malati, sui folli, sui matti, sugli amori di questo tipo. E nemmeno voglio mettermi a parlare cos'è l'amore, cioè non si tratta di quello di sicuro, punto e basta. I numeri sono troppi qui, sono troppi in Cile, sono troppi in Argentina, sono troppi in qualsiasi parte del appunto mondo, perché non c'è, anche uno sarebbe troppo, perché è uno e quindi non va bene. Rimane che comunque l'altro giorno le studenti facevano risentire il coro della Stesis, forse lo potremmo ricercare. Sì. È stato bellissimo come quel coro inventato da queste compagne abbia fatto veramente il giro del mondo. Oggi vedevo che tornavano a parlare di tornavano la Stesis a mostrare video fatti veramente in tutti i dialetti, dal catalano all'angolano al brasiliano al sardo, ha veramente attraversato, perché questo è un po' il filo che unisce le donne del mondo, con tutte le loro differenze, ma insomma rimane una questione che ci unisce ancora di più. Insomma, se penso a un Cile che, appunto, quando è uscito quel coro aveva uno spessore dietro che era quello di una del risveglio di un popolo, di questa rivolta che tanto vi nominiamo, che è stata infatti poi scandita da tantissima violenza poliziesca e stupri verso le compagne arrestate durante i fermi. Ci ricordiamo di fotografie di ragazze che venivano fermate da 7, 8, 9 carabinieri che le spogliavano come proprio a voler mostrare il loro corpo nelle loro mani sulla pubblica piazza. Sembravano veramente quasi delle dimostrazioni di potere. E questo è quello che, insomma, succede poi in tantissime parti del mondo. Ne abbiamo parlato con Eder, abbiamo veramente così sfiorato un po', ma lui ce lo diceva quanto poi in queste condizioni no, ci sia tutto un livello per cui poi le donne sono sempre nella loro trasversalità all'ultimo scalino della scala. Parlava di Francia Marquez, questa giovane candidata afrodiscendente che neanche ha cominciato la sua campagna, già gli stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Parlava di donne rappresentanti dei movimenti indigeni, e qui potremmo cominciare a fare una lista infinita, partendo da Macarena Valdés, passando per Berta Cáceres, finendo insomma in Brasile. Insomma, queste sono le donne di cui vogliamo fare la memoria, ma ci sono anche quelle che non hanno voce, quelle che non hanno più voce, e noi vogliamo prendere la loro voce e riportarla qui, invece farla forte, continuare a farle parlare con la rabbia di quello che gli è successo. Con questo io direi che chiudiamo brevemente la trasmissione, andiamo a leggere, appunto, andiamo a parlare con Mauro e poi ancora a dare qualche notizia, insomma, in continuazione con quello che c'è stato nella mattinata per quello che c'è qualcosa quindi succede, sì, insomma, un paio di notizie da leggere anche stasera e poi ne parleremo domani e poi chiaramente il 27 sarà tutto uno strillare. E allora che vogliamo mettere? Mettiamo un'altra. Ce facciamo l'hai? Una pausetta. Sì, ma sì, dai. Senza sigla, dai, chiudiamo così. Allora salutiamo. Sì, allora io direi che noi ci vediamo giovedì prossimo, 19-18 sì, minuti. Come sempre, sull'87.9. Con un Eder, forse, sicuramente. No, penso. Sicuramente. Cioè, così. Se mi sente, chi t'ha detto? Eder. Ti aspettiamo, quindi ti aspettiamo, quindi ci sarai, parleremo proprio di quello che è stato il trattato di pace colombiano e come sempre con un saluto particolare a tutti e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. A prossimo giovedì, buona serata. Ehi, todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara.